eccolo qua. Dai, più forte di Luigi anche. Ma io sto andando con 15 watt adesso, sto usando l'ex... sono andato con 15 watt, non di più. Il segnale Luigi da lui è solo 6, il tuo è 9. Il mio è 9, con quasi 15 watt, anche io voglio watt, Luca, ti posso confermare che c'è una bella radio. Anche se Luigi c'è una bella radio, però il segnale è molto più basso, capito? Oh Tony, come ti faccio un passaggio con un watt, aspetta, vediamo quel segnale mi dai. Luigi che ha braggiato. Lo facciamo entrare qua. Guarda Tony, un vago, si segnale, non te c'è, vai. Uno deve essere, un watt e mezzo, cava. Oh Luca. Nada, Tony. Guarda, il segnale forte, la radio passa. Vabbè, è il microfono normale che mi sto usando, questo qua è il Midland con il microfono normale e sta dando un watt e mezzo, quanto è il segnale? Almeno la è la radio molto bassa, guarda il segnale molto, come segnale vai alto, però come radio sei basso Luca. Ti facciamo entrare, ma ho capito che mi siete sovrammodulati con Luigi. E quant'è il segnale? 5, 6, quant'è? Ma se lo vedi, il segnale 6. Ah, già andare, come fate in mezzo, la Puglia. No, giusto per sapere un po' quanto stavo arrivando, dai. Ok, avanti lui, riprendi tu, cava. Luigi. Vulcano, aspetta il break un attimo, Vulcano. Cazzo, detti break mi so. Vulcano. Aspetta Gianni, avanti chi sia, Alessandro o Gianfranco? Ciao Gianfranco, buonasera, avanti Gianni. Buonasera, doppio lungo da questa parte. Buonasera a tutti. Avanti Luca di nuovo per far girare. Ciao, già salutone, l'ho sentito. Avanti. Oh, Tony. Ma Luigi ha fatto un break, però non è entrato. Lui sta provando la radio, un po' esce, un po' non esce, boh. È tutto incasinato Luigi da lì, non lo so. No, io oramai non capisco più se stia a casa, se non guardo il segnale. Con tutti gli ti ecco che vai, non ho compreso più nulla. Attenzione Luigi Vulcano. Io sto usando il Dana P3 col baracchino. A me lecco questa radio, c'è anche Zarrada, tutta chiusa, non mi interessa, preferisco usarlo così. Ciao Agava, Gianfranco avanti, poi Luigi già ribrecca di nuovo, va. Ma perché non ti sente Tonino? Tonino la senti a Maria Luisa? Io Maria Luisa non la sento, non si dico molto, ma almeno una decina d'anni. Ma cosa? Gianni, la più lungo, come mai così basso? Basso sopra. Ehi, molto basso. Ma cosa sta arrivando? Non è la tua relazione. Non è bella come la sentivo, bella. Segnale, la verità è che 5. È un periodo già che se non stai riuscendo alla grande, è brutto. Io ti consiglio di salire sopra quel tetto e controllare se tutto è in ordine, perché io noto sempre differente qua, anche adesso col baracchino, 9.30 di nuovo, 9 più 30. Gesù, allora ti fai sentire. Però guarda, volte sei molto molto scarso, non lo so. Io ho 4 watt adesso, 5 watt modulati, e hai il mio stesso segnale. Anch'io da Torino sto arrivando, Santiago 5, con 4 watt. Vediamo un attimino se Luigi vuole riprendere. Lui. Vi saluto e me ne rimango in ascolto. Ciao a tutti, QRT per me. Ciao ciao. Ciao Tonino, già ci sentiamo per telefono. Ciao Claudio, come mai? Non capisco più niente, portanti, chi parla sopra, chi parla sotto, boh, non si comprende più nulla, no? Mi sono stufato. Sono trombato il Lugano, una giugana di... non me la fu tenuta. Siamo arrivati alla frutta, ve l'ho già detto. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao ciao. Claudio, vai sopra, capo di questo. Ciao, ciao, ciao. Ah, ecco, ascolto, Ecco. Sul casino c'è qua, mettiamo in ordine, ciao, mettiamo portante, gaffa. Bugga, spostati al 40, vai. Scusate. Poi ce ne stiamo andando all'uno. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Non si può stare, cazzo. È diventato un casino totale. Ho chiuso la squadra, non me la futti nulla. Meglio parlare in buchi, perché mi sono accorto, quando siamo in tanti non si capisce più un cazzo. Portanti, contromortanti, capisco più niente, la verità, mi sono rotto le balle, ogni volta, ogni sera così, uno entra a rilassarsi, portante, brusci, ah che vadano tutti in affanculo, no, ma diciamo. Poi quando la gente si sposta si fa questione per i fatti suoi, la gente si lamenta, allora vedi per questione, andate a vedere, io non vi va vedo quando è il casino, riprendi lui. È un casino, ecco, che ci vuoi fare, troppo. Ma lui sicuramente c'è il volume basso, perché schiaccia e parla 4 watt, 2 watt, ma non ci sente a noi, ecco perché, ma c'è troppo casino. Aspetta, lo volevo dire, roba Roberto, aspetta. Oh, Roberto, qua è Franco, il microfono me l'ha restituito, e ha detto che non si può fare, cioè non gli ha dato il coso, la, come cavolo si chiama? Qua a Napoli, la aiutami, il terzo artistico. No schema. Il primo che passa, Lucio, passo io, ti do uno scudo se sono andato, ma è difficile. Se ti capita di passare tu, me lo porti tu. Ah, no, beh, io da domani inizio a lavorare. Non mi trovi a casa. Vabbè, dai, già capiterà un fine settimana, qualche giorno, le mani che capiti. Comunque già te lo passo io. Te lo passo io perché lavoro una volta la tua, dai, ok? Ciao, ma sta facendo lui? Vabbè, ancora niente, non dico nulla, se no poi fa male. Ma sono in zona tua, sto lavorando. Cioè, devo iniziare, dai. La magista. No. Di persona. Ciao, Roberto. Ciao, Fabio, sentito. Le più tre con un barracchino. Ho sentito un po' da brutto, ho cercato di entrare, poi c'era un po' di caos, stavo ascoltando. C'è una portata comunque, qua arriva 9.35, fortissima. Beh, siamo arrivati alla frutta, non c'è più niente per nessuno, noi abbiamo deciso che non c'è portante, è che Luca non può andare nei canali alti perché disturba, altrimenti me ne sarei andato nei canali alti e non avrei cercato più a nessuno, guarda, perché non si può più andare avanti. Ogni sera la stessa storia, ogni sera. Ma forse non siete riusciti ancora a capire da dove viene questo segnale. Come fai? No, è a perdere tempo, capito? Hai qualcuno che ci vuole disturbare, che disturba, quindi che disturbi, io mi sposto. Se qualcuno mette appresso mi sposto. Sì. e se no me ne sono zitto, cioè non si può più andare avanti. È entrata tanta di quella mondezza che non ne avete idea voi, guarda. Ma mondezza blu più è. Purtroppo non sono tutti competenti, c'è un sacco di gente che non sa ancora il carattere e il comportamento, purtroppo cosa ci possiamo fare. Ma l'educazione ce l'hanno insegnata Roberto, capito? Ci hanno insegnato l'educazione. E poi quando uno diventa cattivo e allora la colpa è sempre di quello più forte, capito? Io meno male mi sto uscendo col baracchino, 4 watt, chi mi ponga è un abortante, non me ne ha fatto proprio un accidente. Parlo con Luca e con Franco. Chi mi sente sono loro, gli altri, chi non mi sente non me ne ha fatto nulla. Vabbè, ma è brutto così, purtroppo, bisogna accompagnare gli altri in su. Lo so Roberto, non lo so, ti piace questa modulazione, buona? Sì, sì, me la chiara, forse c'è però leggero l'effetto camera, c'è un po' di distante dal microfono. Beh, io parlo sempre rilassato dal microfono, quindi niente, non sto né gridando né nulla, ce l'ho a più di metà, tranne più tre, tieni conto che questa radio non c'ha molto mic gain perché è una radio particolare con altre funzioni, però vedo che con tranne più tre va bene. Sì, la voglia ti fa sentire la grande, niente da dire. Chi va? Non me l'ha tenuta. Chi mi sente, chi non mi sente c'è la biglia in culo. Qua sei 9 più 30, là. La portante è proprio quella più forte, quando stai parlando un po' ti schiacciava, ci sentivi un po' sotto, però era più forte, 9.35 la portante. E vabbè, pazienza Roberto, pazienza che quando c'è la portante vuol dire cambio apparato, però a me piace anche usare un po' questo perché è un baracchino che ci tengo, è buono, nuovo e quindi ogni tanto lo usiamo. Vabbè, perché no, se funziona bisogna tagliare le dose, non è giusto? Vabbè, io tutti gli ecco, gli gorgi, mi sono stufato, no? Sto baracchino c'ha tante di quelle cose, però io lo uso così, tutto chiuso, normale, bello, pulito, col microfono a tavolo e basta. Vai Luca. Diciamo che se troppo casino va bene, dai, no, ma che fa fai dialogare? Ti viene male, poi bizzicci non fa, dai, non fa. E via via. Cazzo, questa è chiaro, ci come fatto, ci mandi due posti di là, Roberto. Questa non vuol dire niente la potenza, molte volte, non vuol dire niente. Ma mai visto ho 5 watt e tu arrivi 6 da Tonino e arrivo 5 e quindi vede bene che la posizione cambia. No, con un watt e mezzo arrivo 6. Dura di due, con un watt e mezzo arrivi 6 io dico con 4 watt. Vabbè che da 4 a 2 ciamba poco, perché quel mezzo watt diciamo che sono 2 watt, 1 watt, 2 watt. Non cambia niente, però la posizione conta molto, conta molto, già va bene. Lui, l'importante è ci sentiamo, mi sono rotto, capito? Faccio di campallene lì, ovunque, le grazie di amplificatore, non me ne frega più niente. Chi mi sente, chi non mi sente, Simone di Gufi. È infatti, sta. Comunque, con un watt, poi con quasi 15 watt arrivo 9. Questo già cambia, dai, un po' già cambia. 3 punti in più, questo già cambia, dai. Ehi, ai, poi adesso vediamo qua. Comunque, l'altro baracchino, diciamo, mi ho messo il frontale, il 34, i cappi. Sto pensando di darlo a Luigi a farmelo se ne vai di guatti. Poi devo controllare e dal capo non c'ha. Così quanto un vatto dovrebbe subito. Ma infatti conviene mettere a posto, no, io questo te l'ho detto, l'ho lasciato normale, non lo tocco, anche perché magari mi capita di metterle un amplificatorino piccolino e così so che funziona bene, capito? E poi l'hai visto anche tu, è da un batto e mezzo, te l'ho fatto vedere. Io lo so, va bene. Vai Robè. Luca, lo sai, arrivi 5 a Torino, stavi arrivando. Sì, con un batto e mezzo, c'è anche lui, e 9 con questo. E quanto ti arriva lui da te a Torino? Da me 9, quasi 9.10. Lo sai che poco fa Torino, lui dove passava, e tu e Torino quando c'era la portata, tutti e due 9.35, Torino no, deve essere sta aiutando, era una bomba, stava sparando, tu segnalone allucinato. infatti ho notato che il segnale è più alto. Tutti due di appartamento eravate tu e lui. Claudio appena appena sotto si sentiva, perché la portata era 9.35. Arriva bene Tonino, arriva bene qua, cazzo. Arriva sparato, arriva sparato. Vabbè, comunque. Non c'è problema, lasciamo fare, vabbè, se non fa figlio la portante. Tanto cosa ne hai? Cioè ti stai lì a mattare un gambo lunghissimo, lui. Quindi lasciar perdere via. Se non così fai sangue cattivo, inizia a dire parolacce, mandarlo in quel paese. Basta fare l'indiano e via. Cioè come sei tu Claudio, vedi? Se non andiamo negli alti, andiamo nei bassi, non c'è problema. Con il canale Alfa. Canale Alfa, vedi? Tu non c'hai canale Alfa lì, Claudio. Dove? Questo baracchino? Sì. C'ha tutto questo baracchino. C'ha tutto, questo c'ha più o meno, c'ha tutto, c'ha. E poi non c'è problema, io basta che cambio, vado con l'altro, vado dove voglio, già lo sai. Ma non mi interessa, Luca, capito? Cioè, questa gente deve capire che noi eravamo in 4, in 5 prima, ci facevamo i carti nostri. Avevamo entrata tutta canta che sta marmaglia, in alto garrete, garruta, garfruccia, garfavetta laggiù, cappone abortante, come cazzo si fa a continuare? Dimmi tu come si fa a continuare. Allora cosa succede? Che siccome io tu e Franco siamo attaccati, io chiudo lo squelch, parlo con voi e basta, me ne sbatto. Lo so, ma comunque speriamo che lui non si sia offeso, noi ci siamo sfruttati perché c'era portante, non per altro. Se mai si sia offeso, magari che ce ne siamo andati per lui, assolutamente. C'era la portante, più forte di lui, era quanto è Roberto la portante. Chi si offende, io non mi posso mantenere dal vento. Fate chiaro, amicizia lunga con tutti, se c'è silenzio, si può parlare, far girare la ruota, ma mi sta bene. Altrimenti io mi sposto, hai capito? Di gente che mette appresso già ce n'è. Mi sposto, boh, non me la futti lunga di chi fa questione mezzo rugasino, a me non mi piace stare così, perché poi mi incanto e quindi non mi devo fare il sangue cattivo per gli altri, ma ne sto per i catti miei. Infatti, è arrivato a questo punto, guarda, due sono le cose, o ci ritiriamo, o ci spostiamo e ci facciamo la ruota a conto nostro. No, io non mi ritiro, io mi faccio la ruota a conto mio, il canale 10, vogliono fare casino, lascio fare casino, io di canale, io quanti ne voglio, io lo so, quindi mi sposto, decidiamo, lo andiamo sotto, ci andiamo sotto, non me ne affutti nulla lui, cioè non si può più andare avanti così. Certo, da due mesi a questa parte che è entrata tanta di quella mondetta, chi non veniva a dirlo, grazie, e non ha mai, tutta qua si sono scidati, quello è perché si è sparsa la voce, e al baracchino c'è gente, al baracchino c'è gente, tutti quanti hanno le bucate di baracchino dentro l'armadio. Senta mintarsi come ti si fa vedere al barocco, capito? Tutto lì è il problema. E vabbè, quando si comporta bene non c'è problema. Intanto questo tipo io non ho mai sentito di San Giovanni, Antonio mi sbaglio, non mi ricordo il nome. Si è piazzato l'antenna sul tetto, dice che stava sistemando, stava mettendo a posto. Ma non mi ricordo come si chiama, però. Antonio, Gianni, Franco, stava a Franco forse. Ma non mi ricordo se Antonio o Franco, arriva anche bene qua. Andare, vai Robè. Comunque già te lo passo io il microfono, Robè, poi se non c'è nessuno già lo lascio lì in officina. Se c'è possibilità mi fa un favore, perché a me andare con le zone lì veramente ci faccio. Ieri non si può preoccupare, Robè. Non mi costa niente, tu vai lì e ti farò un salto in moto, dai, non c'è problema. Ok, chi c'è da poi? Già, ne riprendi tu. Prima di 101 non te ne esci, lo sconto già non lo fare, dai. Una cosa se ti rifugi la capo non male il suo microfono. Lo risolvo, Robè. Perché mi piace, perché c'è il tappino morbido, il tanner è giusto come tasto. Quale? Che è mio? No, dico, il tanner che ho io è un po' duro rispetto a quello SBE. No, il mio è una piuma. Il mio è una piuma, sia quello, il lock e tutto, figurati io vado con il lock. E lo schiaccio tranquillamente, è una piuma il mio, dipende da che microfono è, questo è quello originale riuscito ad avere lo schema di quelle, perché ho un telefono RSBA. Ma perché si tratta la RSBA? Certo che esiste. Non c'ho mai comprovato, io pensavo fosse una roba vecchia della guerra, figurati. No, già esiste. Se tu entri su internet e fai la ricerca automatica, già te lo trova, che aspettare. Ti trovi il microfono, la sigla, SBA, eccetera, eccetera, e poi quando ti appare la vediata guardi schema elettrico e te lo prendi da lì, capito? Perché mi sembra strano a me, cazzo, che non si riesce a sistemarlo col microfono. Ma mi sono interessato più di tanto perché tu dici l'estate, mi ha dato fine primavera verso aprile col microfono, poi non stavo provando qua a farlo, ho lasciato perdere, poi è capitato, siamo scesi giù al mare, poi Franco mi ha detto che ce l'avevo uguale, dalla descrizione sembrava uguale a mio, poi invece è detto diverso. Sì, sincero, io quando l'ho aperto è completamente diverso. Non lo so perché, ma è diverso, Roberto. Sono l'unico al padrone che mi ha dato, quando lo vedo, che già lo conosci pure tu il padrone, come si chiama? Come si chiama? Dico rimetterlo come era prima, visto che l'ho fatto la modifica. Basta rimetterlo come era, qual è il problema? Si rimette come era e vedi che tutto procede ad hoc. No, questo è un microfono, non ti aspetto grosse cose, è un microfono particolare, si adegua molto bene agli apparati suoi, agli apparati LSBA, quelli sono vecchi, canali da base, 40 canali, che facciamo tempo, però con i baracchini la è molto metallica. Non lo so, non l'ho mai sentito, è uno dei pochissimi che non l'ho mai sentito. Comunque vede anche di uno spiritoso comunque qua, saranno curti. Solleva poco qua. Tu non la senti, Claudio, tu sei vicino a Claudio. Qua da vecchio per tu mi tagliava la conversazione di Claudio. Ho capito, scusa, Claudio. Vabbè. Che c'è di nuovo la portata, come parlava Claudio, gli dava i curti, la curti dava il coso. E gli tagliava la conversazione. Ma non è qua vicino comunque. C'è un altro passo, lo senti, ce n'è uno sente un po' da mezzo a quella. Vabbè. Sì, claro. Ho cambiato il radio, vai. Si sente. Vabbè, intanto ho già agato va. Non ti vado ne va a vedere con 4 watt, sei costretto sempre ad usare le stesse cose, capito? Se uno vuole fare un quartiere in città con 4 watt, no, non è possibile che ti buono è abortante. Questo è che lo stai facendo, senta Gianni qua, Santiago off, e lui è al 10. Dipende dal baracchino tuo, perché io poco fa ho fatto la prova e non sento niente, io dove mi hai mandato tu. Assurdo, ragazzi. Che? Che è avanti? Cazzo di porca idea. Beh, lasciamo perdere, parliamo di sopra, riprendi? Claudio, è quello di Sadetta, lo puoi sul microfono? Cos'è? Sadetta, ecco Master Plus, un fiume di niente, la gente giù va, gente che quando fai collegamento la maggior parte di questi di fuori hanno questo microfono, mai provato? Sadetta Master Plus, è un bar ragione, c'è la Daniele uguale. Ma la cagata? Un microfono così è vabbè, non è che sia delle migliori, capito? Non è paragonabile al Turner come qualità? No, è il Turner numero uno, vabbè, ma te lo dico con... Senza nessun problema, il Turner è il numero uno dei microfoni CB. CB è secondo che radio lo usi, decametrico però, e non a sintonia continua. Di quelli decametrici valvolari. Oh, guarda, una bomba. Lo sto arrivando adesso. Si prova. Adesso già va bene, non ci sono problemi. Fissato, l'ha rimandato alla portante, ma l'ha cacciato tutto. E avari veri male a rompere balla, prova a fondare pure in affanculo. Che prendi Luca? Canale 10, vai a rompere i coglioni, che qua intanto perdi solo tempo. Luca, riprendi. Deve essere sta controllando la radio. dice che c'ha problemi. Poi sabato ho fatto un'offerta per il microfono, per un microfono, e l'ho vinta, uno della Intec, senza la base, un microfono da base, 20 euro, nuovo nuovo, poi alla fine chi era di Lanusega, sono andato pure a prenderlo, solo ormai ho già tutto fatto. Sì, non so se è andato a prenderlo, farò arrivare lì apposta che è meglio là. Infatti, parte 0 di trasporto me l'ha fatti nulla se andavo lì, però dico, poi passando sono venuto a sapere che era di Lanusega. Addirittura, figurati. E allora già va bene, va. Ascolta, che tipo di microfono è? Non ho mai visto qua. Come si chiama? Tipo la Dunis, c'è la molla, così è la capsula esterna, così, e poi c'ha due tasti sotto il volume. No, bisogna vederlo. Bisogna vederlo, perché così non mi dice niente. Ma hai visto, è della Intec, originale della Intec, ma voglio mettere per quell'apparato, ti ricordi quello senza le basi Intec, che non so come riuscire a acciappare un microfono che funziona bene, un po' un MD più 5, ma voglio provare con il suo originale amplificato a vedere come va. Ah, ho capito, vabbè, lì basta fare la prova, provare quello lì e vedere come risuona. Sicuramente meglio dell'originale, perché quello non vale niente. Vabbè, ma ci sono i microfoni originali che vanno bene. Io ho quello quello della Midrand, che si adegua un po' anche a tutte le apparecchiature, che aspetta, funziona benissimo. No, ma la musica, guarda, la Midland saranno brutti a vedersi, però quello di modulazione funzionava bene. L'Intec è buonissimo come ricezione e tutto quanto, però la radio è quasi schifo. Ci vuole un microfono, bisogna provare, riprovare, vari, se riesce a trovarlo. Luca, dove è andato Luca? E boh, sono andato a mangiare. Luca, attenzione, se c'è sul canale 1, cambio. E se avessi buttato, aspetta. Su 10, ma non c'è nessuno, non c'è tutti sull'udente, ma non c'è nessuno. Sai che c'è, se rompe i coglioni, cioè, va a disturbare a tutte le parti, capito? Non me la fotti più nulla. Te lo vedo, quando c'è casino mi sposto, mi faccio questi per i fatti miei. Mi porto dietro due o tre persone, me ne vado negli altri canali. Usa a cattivizzare lì a romperti le balle, ma che vadano a cagare. Infatti, non sì, o studi o ti sposti. Io cambio radio, se modulo, vabbè, con Franco e con Luca posso modulare anche col baracchino, ma magari quando si è già in lontananza, 4 watt sono sempre pochi, io non li ho mai usati. Commuto me, molto ci ho messo, commuto l'antenna e uso questo, non me ne frega niente. Ma secondo me un giorno ti capita, ci apprendiamo, dobbiamo provare ad andare fuori banda, però spostandosi dove teoricamente non si può andare, a vedere se secondo me io sto pensando che non sia qualche tipo di persona, cioè che non sia un CB, che sia un altro genere di persona. Ah, lo so, non c'è nessuno a quei livelli, capito, che possa disturbare così, no? Non era tutti nuda nessuno, quella gente lì è altri obiettivi, non ha, la odiano questa frequenza, capito? Io invece odio la loro, quindi preferisco parlare qua, non me frega niente. Vabbè, ti lascio che è pronta la cena, dai, se coincide ci sentiamo dopo, rimango qua sul canale 1 io, non c'è problema. Tu già cenato hai? Ho mangiato un paio di torta al volo, dai, ti saluto, dai, ci sentiamo, rimango un pochettino qua, vediamo se c'è qualcuno, comunque buona carica, poi se coincide ci sentiamo dopo, dai, ciao, ci sentiamo. Ciao Robert, dai, prova magari a cercare a Luca, perché fine ha fatto, già sono in ascolto, ciao. Claudio, Roberto, Luca. Ce l'abbiamo tutti, andiamo su 11 alta, dai. Ma non c'è, va bene, ci vuole il baracchino suo. Ah, se no, magari l'avremmo seminato. Benito. adesso sei 9 più 15, cosa hai fatto? Perché domani devo iniziare un lavoro, bene, e finisco tardi. Non so, se finisco alle 7, tra consegnare, cioè, tra quello che devo fare, per andare a prendermi la moto, si fanno le 7 e mezza, si possono fare le 8. Infatti ho il tattino, se mi dava il numero, avrei chiamato, e avrei fatto venire. Dopo la sera siamo saliti a casa e ti ho dato il baracchino. Se non l'ha detto dopo, mai. Siamo rubando me, cava. si ammazza tua macchina. Sentiamo dopo se... se smette di rompere, se no a domani. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Attalino. Poi... dimmi. E la vedo che nella micidica. Ma che sì. Perché tanto stare qua non mi sembra il massimo stasera. Devo rispondere. Cristo, devo rispondere. No, sono io. Cazzo, c'è un attimo di mezz'ora. Vabbè, anche io chiudo adesso, no, sono con mezzo dormito in piedi, mi guardo un po' di televisione, là, poi c'è questa situazione qua, ai piccolini, quelli bassi, non riusciamo a sentire, sento solo a te, Luca e Natalino, e bu. Ciao Natalino comunque, ciao Gianni, ciao Luca, Benito, Pierpaolo e tutti gli altri, dai, tutti all'ascolto, dai, ci sentiamo in altre situazioni migliori, dai. Di nuovo, buona serata a tutti. Ciao, allora, anche a te Luca, avanti, avanti. Adesso non posso farne un altro, perché ci sono altre delle fotonie e mezzo, perché io non lo devo dare a Mario, la situazione è già, che ci sono le foto del bambino, e ne è arrivato buco. Cosa già? Che ti ha fatto? Mi ha fatto? Che cosa? La porta. Ha fatto rumore. No, ero io il computer. A lui. Sono la portata perché poco fa con rumore la fatta. Comunque io. Fatta io ci attacco la faccia, faccio sentire come se si piace. Luca. Luca. Sono di quella generazione lì, ma no, non va. non spinge, non la sento spinta io, oppure la sento anche metallica. Oh, un attimino, Pierpaolo, ascolta a me, vai a calare un attimo. Metallica, secondo e spinge. Secondo il carradiere vuole modificare anche il carro, infatti sopra che me l'aveva detto Michele. Si vuole modificare, rubare, fai finì. Lui è quello, non è modificato già. No, oh, questo qui è normale. Ma io in cuffia mi sento bene. Non so se poi in etere riesco a uscire come mi sento in cuffia. Ma perché tane più tre si modificano una calicca, boh, pare entrare in radio alle mani, e l'MB più 4 e più 5 lo puoi modificare, il tane più 3 basta che sia adeguato a un baracchino quartato e va benissimo, come il mio è attaccato la radio americana quartata, ecco perché va bene, forse quella lì a PLL non va bene. No, perché anche io ho dovuto modificare anche l'MB più 4, te lo ricordi per la storia dell'apparecchio dove l'ho attaccato? Per non andare, e per rubarmi riuscì. Un Cristo, perché non so, sembra un microfono normale, qui è metallico quello di Gianni. Ma c'è un altro di metallico il timer, capito? Però cazzo spinge una belva su quegli apparati lì. Quello che voglio dire io. E perché sul mio non l'hai sentito poco fa? Io ce l'ho attaccato al Super Sidek, dove c'è il Super Sidek che mi ha al Jack Penny. E ciò c'ha il tame più 3, quello grigio. Capito? E va bene, non è mica modificato, no? Ce l'ho a 2 ed è una bomba. Roberto Quadrato mi ha detto una bomba. Questo non spinge, è metallico, non spinge, cioè non sento niente io di spinta. Perché vuole cambiato non so che cosa, il tunnel più 3 per andare su quegli apparecchi a PLL, fatti il paraio, adesso non me lo ricordo se l'aveva cambiato Michele, bisognerebbe chiedere a lui. Ma lui c'è il tunnel più 3B, è quello che non è neanche, capito, il tunnel più 3B è così, io c'ho quello grigio, quello originale, il tunnel più 3 è boh. Non ne ha modifica, non ne ha modifica, l'ho attaccato al Magnum e va bene, lo attacco al Jack Penny e va bene, spinge benissimo. Quello lì io l'ho già provato l'altra volta, la prima volta che lui l'ha attaccato, e è un tame più 3 molto particolare, con la gappa c'è la nuova rasoia, Ah, provarsi che sia anche quello, non è da escludere che sia anche quello, che non abbia l'attaccato sulla pelle. Siccome lui ha comprato, mi pare, su eBay, molto probabilmente io l'ho comprato da un radioamatore, non l'ho comprato da eBay, capito? E quindi molto probabilmente o non c'è la capocella sua, bisognerebbe aprirla e vedere se la capocella uguale alla mia e se il circuito è il suo, perché il mio è l'originale, il circuito, la capsula, e quindi non è modificato, va bene, quello lì può darsi che la gente in bocca uga che capsula diversa, mentre ne è fatta a me con il microfono della Yaesu, che me l'hanno mandato con una capsula diramica anziché essere in porcellana, capito? È già. No, a me non l'ho preso dal microfono. Questo è un altro amico importatore che ce l'aveva anni e anni conservato e ce l'aveva dentro la scatola di... non è roba toccata, non era nuovo, dite che non c'è un grafico. Il mio è nuovo già, ma allora è l'apparato che non va, capito? È l'apparato che non va. Poi l'apparato si è tu sfigato, perché io non ti ho mai sentito con una radio forte come quella di Luca, come quella di Natalino con l'MB più 4, come la mia quando uso il tame più 3, come tante altre, come quella di Giulio, come quella di Roberto. Tu non sei mai uscito bene con il microfono a tavolo, mai ti ho sentito bene già. Dopo, quindi l'unica radio che può essere, oddio, oramai sono abituato a sentirti, è quella che usi col microfono con l'eco. Però io col microfono a tavolo non ti ho mai sentito bene, mai, mai, mai. E la voce, poi. Che fatto, puoi sentirti parlando un microfono normale, te lo ricordi? Perché lo spingeva sull'LMS200. E allora gli ho fatto la modifica, non neanche il panel spinge sull'LMS200, bisogna modificarlo per farlo spingere. Perché io l'ho provato, ho iniziato ho il supersigliere che diciamo che è simile, molto simile all'MS200, molto simile, perché non c'ha mic gain, e se vuoi io te lo faccio sentire come esce, non è modificato, esce molto molto forte, molto forte. Non ha mic gain, questo c'ha le bande laterali, e canali, c'ha gli stessi canali che c'ha l'MS200. È molto molto simile, col frontalino cromato davanti, e poi è leggermente più lungo, come larghezza è uguale all'LMS200, uguale, preciso identico, eppure viaggia bene il Tane T3, evidentemente si adegua al baracchino, capito? Non è questione di voce, no? Bisogna azzeccare il baracchino giusto. Infatti, l'abbinamento al baracchino, se quel Tane magari lo mettiamo su un apparecchio di quelli vecchi, spinge maledettamente, bisognerebbe provarlo, però se non vuole modificarlo altrimenti. Certo, è così. Io, grazie a Dio, di questi problemi non ne ho mai avuto. Tutti i microfoni che uso hanno sempre avuto, sono sempre usciti bene. Gianni no, ha una sfiga, il microfono, una cosa allucinante. Sì, mi ricordo adesso già, stavo confondendo con l'altro. Mi ricordo che l'avevi preso a Prodotorto. Io ne avevo tre di Tane T3. Due li ho venduti e uno me lo sono tenuto. Funzionano bene, non lo so, vabbè. L'unico microfono che non è che è molto spinto, però è molto chiaro, questo invece è metallico, quello là non è metallico, è quell'MB più 4, mi pare, più 5 che c'hai con l'Intec, quello un po' va meglio. Servita, utilizzato il gamma del microfono. Cos'è? Scommetto che non te ne sei accorto che ho cambiato microfono. Sono passato l'uno all'altro. E Natale, non me ne sono accorto. Non ti dico niente, ma già me ne sono accorto. Ecco, sto usando l'MS200. Già si sente. Questa è più... ha più toni acuti, ti ho detto. Quella là c'ha più toni medio-bassi, come questa. I microfoni sono diversi. E un po' già, fai le prove, cazzo. Vai, vedi i baracchini. E ma è possibile che con due microfoni che vai non riesci a far andare bene su uno di quei baracchini? Oh, mi sto stufando questo figlio qua, ha cambiato l'antenna, non va bene. L'apparato che lo provi non si sente più la ricezione, a volte sparisce completamente, poi si sente la voce, si sente come se fosse fuori frequenza, è un caso. Io te lo detto, vedi un pochino, perché lì secondo me a me non mi convince assai, controllate bene l'impianto ovviamente, perché io noto sempre la differenza, forse quando esci con pochi watt, non lo so, comunque vedi un pochino. Io non ti ascolto più come prima, non ti offendere, te l'ho detto, mi devo già lo vedi in faccia. Dalla macchina, vedo una bomba prima, va a pari 30 anni cagnara. Da casa con questi microfoni che hai non riesci a farne andare neanche uno, non lo so, chi è che ha chiamato? Ciao, Fabio, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato, cordiali saluti anche a te, compagnia di Gianni Doppio Room e Natalino Alfa 1 K. Papa Gianni, e questo mi fa piacere, io non ci salgo mai su in alto a trovarti, invece tu ogni tanto scendi, molto bene, molto molto bene, cordiali saluti Gianni, mi ha fatto piacere che sei entrato. Ti lancio a Gianni e poi a Natalino, così ti salutano anche loro. Vai Gianni. Non ho capito chi sia. Comunque buonasera Gianni, non so chi tu sia, da dove vuoi, così ti presenterai col tuo nome attivo, perché faccio la bandiera a tagliare avanti. Quelle Gianni Giaguano, non l'hai conosciuto, gatta, lì si è rincronato Gianni. Ciao Gianni. sta dice tutti l'allegra vegliata, io un tanto sul lavoro, per in aria, non per me, delle persone che sono in radio, già io sono sapere cosa c'è Claudio, che ha molta esperienza, quindi diciamo che in fondo è anche la mattina. Beh, non posso dire tutto, si torna, io credo che non è più, quindi Claudio vado a d'accordo Gianni, un caro saluto, dai, ci sentiamo alle prossime, ho fatto piacere, si è tratta a salutarmi e a salutarci, quando vuoi siamo qua, buona cena, buon tutto e un saluto cordiale al Corea. Avanti, chi è entrato? Il capo, sì, io, saluta Gianni, niente, alla prossima, sto ascoltando, dai. Buona serata e un saluto alla guardia familiare. Avanti, a te Gianni. Ciao Giaguaro, ci sentiamo. Scusami, ci sono stato riconosciuto, ma ero con l'apparato e la ricezione è un po' diversa. Cappamatta via, va. Ciao Gianni, buona cena. Allora, a risentirci alle prossime, fatti sentire un po' più spesso. Ok, riprendi Luca. Ogni tanto già si fa sentire anche Gianni, non c'è problema, siamo sempre qua, anche se ogni tanto senti più di una, due, tre, mille parolacce, fregatele, fai l'indiano. Un po' rimbombante qualche questa stanza è così, è più grande, però non c'è né metallico né niente, c'è spinta, il microfono sta andando, e ti ricordo che ce l'ho a metà. Tu ti ricordo che la luce di quell'apparato è sempre chiusa, non l'ho mai toccato. Di quale? Del Ranger? Ma il Ranger è... cosa tocchi di LC? Cosa devi toccare? Puoi alzare. No, già stai sbagliando. Che fai? Come si chiude l'apparato che puoi alzare le luci? No, apro la per adesso, lo puoi alzare. Non puoi toccare niente lì dentro. Appena lo faccio io, ma se lo voglio fare già lo so a chi farlo fare. E me lo fa, non c'è problema. Basta dire un tecnico e te lo sa fare. Non c'entra niente già, non mi capisci quando parlo io. Sto dicendo che non c'entra niente l'LC. Quella è una radio a PLL e quindi il tane più 3 non va bene. Tu tane più 3 ce lo provi. Se tu lo dai a me quel tane più 3 per dimostrarti che il microfono non c'ha niente, io lo attacco a questa radio. Spinge quanto è questo? Hai capito? Spinge quanto è questo? No. Non è questione di radio di LC, perché questo microfono Mickey Gay non ne ha, questo Mickey Gay non ne ha la radio, hai capito? Non ne ha, mentre tu c'hai Mickey Gay anche, e quindi qua sta spingendo solo il microfono per dimostrarti che deve essere adeguato alla radio. Tanto la voce è quella che conta tante volte, la voce. E tu non ne hai voce, io ti sento anche saturo con questo baracchino, non so perché. Vabbè, cosa vuoi ti dico? Tu voce non ne hai per fare cantare i microfoni, la voce ce l'ho io, Natalino, Luca, mi, con questo microfono va bene, lasciamo perdere Franco Califano che è sempre a Tecchirri, ma tu non ti ho mai sentito con la voce alta, bella, squillante, nulla, niente, proprio zero sotto zero. Beh, perché parlo io a voce bassa, guarda adesso se parlo normalmente come si sente. Già, come ti sento? Ti sento tutto impastato, con questo ecco, e poi c'è impastato di modulazione, non lo so come ti sentono gli altri. È un po' impastato, confermo. Diciamo che Gianni, cioè, devo usare un tipo di microfono che ce l'ha a lui, alla sua voce, alla sua timbrica. Ho notato che già da un bel pezzo che sta ascoltando anch'io male già. La strumentazione mi segna tutto regolare. Già a parte che si diciamo un po' sacro di radio. Ma poi parla coricato, cioè non so come dirtelo, dai. No, non esci bene, non ti offendo, te l'ho già detto l'altra volta, non esci bene da casa tua. Io ti ascolto molto meglio dalla macchina, dalla grande, non dalla piccola, per carità di Dio. Ieri facevi impressione, appena si è entrato, anche quella radio è un po' particolare, non si riesce a regolarla. Ma io ti ascolto bene dalla macchina, da casa tua, guarda, ti sentivo bene con l'140, con quella radio. Bella forte, con tutti i microfoni che tratti tu palmari, io non ti sento bene già, non lo so perché, se poi qualcuno ti dice per farti contento che stai facendo bene, sbaglia, perché non si fa così. Io sono abituato a dare i controlli leali, puliti, quando uno esce bene, quando uno esce male te lo dico, non mi biasi, è inutile che tu lì a tira e molla già, capito? Io lo sai, mi conosci, è così. Natalino c'è una bella modulazione, col baracchino, Luca, te l'ho detto. Tutti, quasi tutti escono bene, Roberto, Giulio, quelli che ci sentiamo. Ma tu proprio va, è un periodo che sei zero sotto zero già. Cosa ci vuoi fare? Natalino. Giulia. La riprenda, che la stai combinando. L'apparato, so. Oh, al PC sì. Mi sono frullato questo PC. Con la radio c'è andata. Sì, ma sono in ambigua, ti immagini? Sì, a voi 30 anni ero sono lontano, perché lo vorrei contare? Anch'io sono lontano, sono a 50-60 cm. Come modulo con l'MC60 sto modulando col tane più 3, né più né meno. Infatti, quello è vero. Cosa ho fatto dalle fotografie, le ho cantate e le faccio vedere qua. Così, guarda, anche le ho cantate solo, vabbè, l'ho preso solo una parte, anche con la toccata, l'ho messa sul cavalletto la macchina, mi sono fatto la fotografia da solo. Già va bene, va, riprendi già. Però ho portato anche con la scatola, una scatola, se stanno messo davanti sul cavalletto, anche con la scatola. Se mi sono andato al computer, se l'ha fatta in primo piano. Sì, già lo so, ma non usciva bene come FTT, pur queste le ho potute cantare con la sua, perché sono la cantante per la macchina fotografica, la sua fotografia. Se vedi come le ha fatte, è orose. Ma sai, a chi va domani al fotografo, mi fa le foto? No, te le faccio io le foto, non c'è problema. Ah, tu vai al fotografo domani, mi fa le foto, poi me le butti. Vabbè, sono di Lucy, tu ci vuoi fare, anche in Lucy. Ma è vero. No, è tengo. Oh, Natali. Oh, dimmi. Per eliminare l'eco, come va l'eco, il bimbi, come ho fatto io, hai fatto quel filo che c'è vicino all'attacco del piede, è tagliato. Adesso non me lo ricordo. C'è la scheda, vi ho tolto, perché la scheda del bimbi, c'era una scheda di bimbi che era rotta, non veniva più cavata. No, io la scheda l'ho lasciata, cioè un filettino che arriva proprio alla fine del circuito dove c'è l'affare della portante, del ricevitore della portante, l'ho tagliato, non ce n'è più. L'altro ha rotto il bale, tu gatto di bimbi. Qua, se tu vedi questo, il Jack Penny, è uguale all'MC200, rimane leggermente più lungo, però come grandezza sono uguali. C'ha le stesse cose, basta, stessi canali, tutto. E lo Smith era abbastanza grande, è bello. Solo che c'era l'illuminazione a... Questo va a 110 volts perché c'è un trasformatore suo, a differenza di quello che va a 12. E c'era la lampadina a 220, gliel'ho tolta perché era gialla e gliel'ho fatto, ho fatto un impianto a 12 volts. Con il suo interruttore dietro, adesso è bello bianco lo Smith, l'unico problema che aveva, ma è nuova, è perfetta. Funziona alla grande. Vedi qua Gianni, i watt devo tirare su, perché 4 watt non mi piacciono, questo c'ha 5 watt in AM e 10 watt in banda laterale, invece voglio fare 10 watt in AM e 15 in banda laterale. Perché 20 in banda laterale? No, tanto non lo uso in banda laterale, non mi piace il baracchino in banda laterale, ho guardato un dito curare per Sikendi e Fendi, uso gli altri in banda laterale. Solo in AM, capito? Per usare in AM per avere qualche watt in più. E che qui sta dicendo la messa? No, quello c'ha i watt su, quello c'ha 40 watt. Con Jack Penny, io adesso sto andando, con Jack Penny e il tunnel più 3 da tavolo, 4 watt e mezzo. Cazzo. E via, Luca. Sto pensando di vedere qualche film, ma non c'è nulla. No, nulla, niente. Oh, me ne passo dentro, che mi sono rotto le balle a questo baracchino. Tanto a cui distanze, in mi rimane. Ora lo fa sentire a Gianni e basta, me ne passo dentro, non c'è la poltroncina che qua c'è la sedia e non mi piace. Io non posso avere mai occhi. Sto commutando l'antenna, sto passando dentro. Va bene, ma è Natalina. Stavo dicendo a Natalì che ho trovato una punta bianca, cioè una tela del baracchino, la capotta. Le ho bucato le gomme, sai di chi è per caso? Sarà di quel bastardo di Natalina, la una. Tu hai cazzo, vedo casino. Perché ho trovato un altro grigio a casa? Ha preso, gliel'ho smontato le rotte e le sono portate lì. Sta quasi rimargati, se la volta in tria. E ci vuole tutta questa volta le rotte che ha portato la morta, ragione lì. E lei mi sono voluto da pintare, a 10 ore di montarla. la macchina giù in su. Ascolti, ma è tira molto. Ma tu ci vai, ci vuole pure bagati. Ti ha già messo l'armadio, ti ho dato una carabina. Eh? Ma che sto caramo? Ah! Già, Maria, stai tranquillo, c'è la ciampetta, non la toccano. È l'unico esemplare che si trova a casa. Devo cannocchiare per fare prima, almeno non ti sbagli. Invece io vado sul garage, e ti vai in garage. Ma questa carabina rossa? Senza carabina, senza cannocchiare. Ma se l'ho trovata una di quelle cose verdi, ho preso il cazzo, l'ho bucato sopra con le gomme. Abbassa Natale che stai tutto trappando. Ciao, tu non ci avevi la merce? Sta scaldando. Non credo vuol dire. Cazzo, lo abbassino. Guarda, così bene, va. Leggermente, cos'è detto già? Aspetta, non ci avevi la merce sclassiata? Io? E io. Ma su niente sì. No, tu mi avevi detto che era grigia una Mercedes classica, ho tentato di comprare e te la grigia a te. Ah, ma la dovevo prendere, cioè da aspettare 6 mesi. Poi ho anche detto che ho fatto 500 euro di caparra. Mio fratello ce l'ha presa la classica grigia, io ce l'ho molto. Ah, boh. Io ho convinto che te l'avevi già presa, boh. Da giugno la Volvo, ecco, ha preso una vita la mia macchina. L'uomo? No, ah, Natalino l'ha vista. Avevo fatto il contratto, avevo dato anche 500 euro di acconto. Poi ho perso perché non avevo rispettato i patti. Mi sono dovuto arrivare in 2 mesi, poi ne avevo un'aziendale, mi hanno proposto l'aziendale. Non mi piaceva il colore, allora ho detto tutto, ho preso la cappella, sono la Volvo, ho preso la Volvo. Ma l'ho presa la stessa forza? Su una Mercedes, può avere la Mercedes con la Volvo, ma su niente c'è, già c'è da dire. E perché non mi versano le macchine, scusa, cosa c'è? Perché io alla fine non ho versato l'offer, cosa c'è? No, non dovevo versare niente, io la Saxo me l'ho venduta privatamente a un amico e basta, l'Audi me l'ho venduta privatamente e sono andato alla Mercedes e non ce ne avevano di altre macchine, non c'era niente da versare, io sono andato con i soldi, sono andato alla Mercedes, alla Volvo, lì alla Viale Porto Polo e ce l'ho presa lì. Ma seconda mano no? Aziendale. Sono abbastanza sentito bene. Ecco, non va lua. C'è un motore che luccica, è una nuova cosa. È nuova, sempre luccica, sempre in garage. Poi Luca mi ha detto che non si viaggia bene con la macchina, vero Luca? Va bene, vabbè. Purtroppo. Quella è una macchina che costa e ti permette di viaggiare bene. Molto comoda, bella. Poi c'è un climatizzatore che è la fine del mondo. Quando entra in funzione non c'è. Stai benissimo. Poi ci piace a me che noi siamo andati a Budusò. Cazzo, che gradi tu vira. 40 gradi vira. Mi punta la mano pura lui. Quanto ormai me la incendia. Ma è molto comoda, poi c'è una tenuta di terra micidiale, c'è tutto, quello che serve per viaggiare a me è più che sufficiente, volevo vedere quando pioveva com'era, ma l'ho provata, terreno bagnato con l'SP, che si muove la terra, non ha niente da invidiare a quella che avevo prima, all'altro, va bene. Un bel motore, ma per certi cavalli di quella là. Il consumo è molto basso, una bella bestiolina già, già va bene, una fortuna. Ultimo, parliamo di altro, stavo dicendo che l'altro giorno mi è sceso mio fratello a produttore e si è preso il, si è preso della moto, si è preso l'X-Max, il 250, il figlio del T-Max. Cazzo, gli ha messo questa marmitta allucinante, gatto, no, un rombo. E mi ha detto, Giamina, che è una bestia, infatti l'ha trovata a Franco, gatto, già mi ha cambiato la giuria. E quanto l'hai pagata tu già? Quanto costa la marmitta quella per la mia moto? Quelle... come si chiamano? 270 euro quella che ho comprato della moto mia. Costava 270 euro, però me l'ha data con la moto, me l'ha data lui. No, no, no. Anche mio fratello l'ha presa con la cosa, cioè se l'ha fatta mettere, non ha più preso nulla perché poi c'era un po' di movimento di pesca, lì non ho capito niente. Poi ero fatto un salito, però non un salito, no. Perché la voglio mettere anche la mia, ma adesso intanto la mia io la sto ancora usando un po', poi io penso a fine mese ne tolgo la batteria, anzi prima la porto a fare tagliando e le faccio mettere la marmitta da Omar, perché Omar mi ha detto intorno ai 180 euro. La Leo Vinci. Come si chiama? Leo Vinci, c'è scritto, che si pronuncia Leo Vinci. E lì c'è il bocco. Non Vinci, ma di una cosa del genere, insomma ricordo, come ne ha detto anche un'altra, che fa la Polini molto bella, che costa mi pare 10 euro di più, non so, comunque le faccio fare tagliando da lui e le faccio mettere questa mamma e poi la pure in garage, a usarla al prossimo anno. 200, quindi 200 euro ci vogliono là. Io, guarda, c'ho la fatturazione del padrone che è stato che va prima la moto per l'altro e c'è 270 euro più una doppia. Comunque è migliorato. Come, ah ecco, no, cazzo, no, la Leoni. Come si chiama lui? Ah, Rob. Però c'è mio fratello, quella lì. Cava. E lì c'è mi piace, ma cazzo c'è un rombo allucinante. Quella lì, e allora quella lì che costa 180 euro a me. Piazzata. Mi ha detto Omar. E quella lì mi piace già. Cazzo bella, eh. Poi su quell'X-Max ci sta veramente bene, eh. È la sua, proprio leggermente appena sollevata. Però cazzo è favolosa quella. È bella anche la moto, è bella anche la marmitta. A me piace più il T-Max, la verità, però se vuoi sapere quello che mi ha detto Masala quando gli ho chiesto di mettere la marmitta di Ulrici, mi ha detto guarda, cosa te ne sai che in città è troppo rumorosa per la marmitta lì, e poi non è vero come dicono che aumenta i cavalli li può aumentare se vanno un po' la scorsa, ma non sono scooter, non conviene, ci lascia l'originale. Ah, vabbè, ha tutto un po' di studi del Masala. Omar mi ha detto che la moto gira molto meglio, soprattutto io che viaggio, gira molto meglio, come scarico è molto più aperto, più la novità sia originale, quando andare il tempo si intasa, no, non va bene, adesso vediamo. Ok, già, T-Max, ti ho detto io, parlo di Max, oggi come oggi, per il T-Max. Mi prendo il Gilera 800, forse ne ho un peso, si mi si via e balle, all'anno che viene, mi piglio il Gilera 800, arco che T-Max, è lo scooter più veloce del mondo. 800, non lo conosco. È bella, se non la conosci, e allora tu non sei appassionato di moto. Beh, nemmeno visto a noi, è della Piaggio, la fa la Piaggio, e ce l'ha scritto anche nel giornale. La Piaggio fa concorrenza alla Yamaha, costa 11.000 euro, ma bella, un mostro, 220 km orari, uno scooterone. Beh, veramente Gilera, non è Piaggio. E Gilera lo guardi la Piaggio. Ma Gilera non è Piaggio. E la casa costruttrice è la Piaggio. Non lo so. Comunque la pista è una volta, bella, bella, bella. Bella, bella, no, non fa 220, là, fa 200 km orari. Ma 200 metri faceva fa l'altra. Stavo confondendo con quell'altra. 200 km orari. Ma, altro che ti macchi, grazie mia ruga. Un mostro. No, tu non sei venuto a vederla con Franco. No, vista un 500. No, claro. L'ho vista, ho fatto vedere la pubblicità televisione, ho fatto vedere di bella, ma 12, quanto costa? 12.000, claro, 13, ma qualcosa. 15.000 e qualcosa, però mi ha detto Ettore Pola, non ci sono problemi. Ha detto che adesso iniziano a... cioè il prezzo è quello perché è appena uscita, poi già abbassa leggermente la... Capito? Va bene, cosa hai detto già? Che diciamo invece la buia, 200 km è la finita perché vuoi vedere la velocità e diciamo invece io... Di Marzio non ha queste cose, ma questa c'ha molto più cose. A me sinceramente parlando, guarda, non è inviato Di Marzio, io continuo a dire che per quel prezzo non ha niente quella moto, niente di nulla, ha un buon motore, boh, esteticamente è una grandissima gaggata, e qualcuno se ne è reso conto, e siamo andati poi a Migusimi, cosa facciamo? Prendiamo, versiamo, boh. Ma guardate, ma il progetto di moto cosa va in più della 2? Cosa va? Nulla, non c'ha niente già, non c'ha niente, c'ha solo un buon motore e due. Per il resto non c'ha niente. Se tu vedi la girella come è fatta ti metti la mano in testa. C'ha questa strumentazione bellissima, queste carene che sono fatte in modo particolare, la guida consigliere che si può regolare anche in altezza, infatti lo svolto. È una cosa allucinante, troppo bella però. A me c'è un T-Max a poco cosa che mi piace un BN grigio, ma ha fatto bene veramente, con la marmitta di Ovinci aperta pure svuotata penso, perché fa roba di una moto da corsa. L'ho fatta qua. Ehi, provatelo. Beh, non girerà. Ehi, provatelo, la paga prova. E per la tua era socio di mio padre, amico, quando era in vita, mi conosceva bambino, tanto è vero che mi chiama col secondo nome lui. Provata lui, un giudo di Venega, un mostro, è un mostro quella moto. Infatti maestro Pasquali, se la vuoi prendere aspetta un attimino che fanno le prove adesso su strada e poi non ti preoccupare. Infatti ho visto, sono una prova mia. Ma ecco, te la ritiro questa, non ti preoccupare. Però voglio aspettare, perché ancora non sono sicuro, capito? Non sono sicuro di cambiare moto, non sono molto entusiasta della moto io, non me la tutti lunga, la uso poco, non sono di quelli che fa sempre in moto, capito? Mi piace usarla in città così, magari quella lì ci vado tutta l'estate a lavorare, perché è molto veloce. Però, ci andavo con la mia che fa 150, quindi arrivo un 250, anzi ti dirò che per essere un 250 la mia ne chiccheggia parecchio di moto, ma parecchio a me. Comunque già, non ho visto anch'io quella di Polacosi, non ti preoccupare. C'era anche nello studio il T-Max, non so se tu l'hai visto. Tu c'era, figurati, il ragazzo di mio nipote, la figlia di mio fratello. Cioè il padrone di Aeroline, il T-Max. Ho provato anche quello, non mi dice due più nulla messa a notte. A me, che sono abituato a che ho avuto anche moto grosse, quella non mi dice proprio niente, vero. Specificamente su quella distanza a me non è che mi attira molto, ma il rombo della moto, quando ti sorpassa e cosa, c'è un rombo di moto da corsa, proprio prende buonoso. Sarà perché anche gli hanno liberato la marmita, quello di tutto, però c'era questo rombo corpo, sembra che non ho la corsa. Allora, qua io ho visto quella mio fratello che è il 250, l'X-Max è il 250, l'Ultimax. E con questa marmita c'era un rombo micidiale, mi piaceva lo stesso. Però anche quella lì, sì, esteticamente è bellina anche quella. Cioè sono sempre moto a 5.000 euro, capito? Anche quella. Però il T-Max, che è una moto a 10.000 euro, non mi piace, non c'ha niente, proprio non c'è, è spenta come moto, è spenta. Cosa gatti, non appunto a me della marmitta del motore, guarda anche le stesse che è la moto. Non c'ha niente, nulla. E tre volte migliore esteticamente, guarda, dico, non perché ce l'ha Franco, ma esteticamente, anche Omar l'ha detto, perché si chiamate Omar da poco con Franco, anche Omar ha detto, esteticamente molto meglio quella che c'ha Franco che il Timatic, esteticamente, a parte il motore che è da vedere, a chi c'è di Franco gambelleggia il vocchio, una moto a 180, 190 quella, viaggia un bel, ed è un bel pesante anche. Sono molto che vanno, adesso man mano che vanno le fanno sempre più veloci anche gli scooteroni. Vedete che faranno anche il 1000 lo scooterone tra poco. Ma no, ma c'era il 1000, c'è l'onda 1000 scooterone, l'ha mai visto? No. Che quale segno, l'ha mai visto quello scooterone grande che c'è? Quello grande della onda, quello è uno scooterone. Ma il mio vissuto va a portatore, ce l'ha bene. C'ha le antenne, quello dell'onda, un bel bello. Ma ce l'ha quello lì, quando va fuori in giro d'estate c'ha due bauli ai fianchi, infatti mia moto, ma non bauli di quelli bauletti, così è fatta così, c'ha due cassoni ai fianchi, larga, gatto bari, una moto di chi d'agosto. No, mi piacciono così, ma no. Questa scuola è quella del girare. Se ti capita, vai alla piaggia e guarda il girare. E poi te ne accorgi. Il California, la California la chiamavano quella moto lì. Non so se tu l'hai mai vista, quella che c'era anche nel barattino, anche nella radio, durante i nomi grandi dietro. Via, con la scala. No, sono la Luca che mi ha chiamato dall'altra parte. Mi arrivano con la scala Luca. Sì, California, già me lo ricordo, sì. Poi ce n'era un'altra già che si chiamava il California, cosa cazzo era sul California? Però metti tu. Il California era un ciao così, della Caribe. Boh, io mi ricordo che il California mi è rimasto impresso. Che mi pare che mi viaggi il tracco, no? Non me lo ricordo. Il tracco c'è una riga, dove è lì? C'era pure un muso, tu vedi lo vi su macchina, una volta si è messo a picchiare il carabinieri, non arrestata. Cos'è il peteggio? Allora stava in negozio, ma se una volta le palle che raccontava quello, mi ha chiesto una colla buona, ma in questa colla buona una volta una donna mi serviva un soldi, ho spaccato la sapatanaia del marito, che la storia mi ha raccontato, fa un raggio di gozzo. Mi ha dato questa colla, l'ha attaccato questo parte sul marito, non si è accorto di nulla. Ma che idea, quello mi faceva ridere era l'acqua, lui ti chiamava chi doveva era Buttiglione, io mi venivo interessato. Siamo arrivati in tragedia, eravamo ragazzi, mi via per dire due tappini di bicicletta. Poi gli avevo la bicicletta e poi gli dico, va giù pure la camera d'aria, va giù il bippi top per la camera d'aria, va giù cose per la cazzo, non me l'ha fatto un cazzo, non mi serve due tappini. E il Buttiglione era che non c'è Franco, c'è Franco chi era, quello meccanico. C'è Franco, ma quello montangito dove adesso c'è Vittorio Corso, il meccanico. Allora non l'ho conosciuto io. No, stavo sbagliando, era Buttiglione quello che stavo dicendo, quello fauraglio. Ciao perché aveva detto che lui era un colonnello del carabinieri, quello lì. Il figlio è mezzo scemo, è esaurito, si vede dalla faccia. Ma una volta sono andati i carabinieri perché poi stava facendo mezzo nudo e si è picchiato il bastone. Sì, l'avevano fermato in macchina. Avevano dato una foto alla foto. Hanno fermato il varco lì, allora c'è il varco da volano. I carabinieri. Perché andava tutto di bar e bosco, altrimenti esaurito. No, ma sono qua e poi ho fermato. Buongiorno, poi fatto le bette, cioè, quale fatto le bette? Ma lo sa che sono io? No, si presenti, ci ha documenti. Sono un colonnello dei carabinieri, qui, là, abbiamo un bar, ci ha documenti. Ci ha documenti a voi non ve lo do. Ma le biliardi, se faccio una cosa, andiamo alla macchina, poi se lei veramente con le carabinieri, accetteremo, non ci sono problemi, qual è il problema? Intanto venga con noi e facciamo l'accettamento. Ha fatto si girato ai carabinieri, insomma, ha detto che non con le carabinieri, ha buttato il casello, ma ha detto, come lo buttiglione era. Sì, da quella lo conosci, ne combina più di bastone in Francia. Eppure prima era tranquillo, era stato dentro il banco, serviva lontano. Ma e io me lo ricordo bene, andavamo a comprare il filo per le marce dell'F50 motocarrozzetta che avevamo noi, no? Quando si rompevano le file delle marce le cambiavamo e non c'aveva mai quelli originali, c'aveva prima giurissimo che andava a Roma stesse, poco di loro ma andava. Infatti, a me diceva, ma è che stava sempre così. Diceva una cosa, no, qui c'è un viaggio, ma non ti do gulissa, che funziona vero Matteo, sì. Anda vero Matteo, sì. No, non va bene. Poi noi con le biciclette eravamo cazzo mezzo malati, anche quando abbiamo iniziato a prendere i primi motorini, le prime cose, sai. Inizi già a capire qualcosa e quindi ti metti a fare. Ah, non verrà nulla a vanno. Lui ti ritirava la cosa che voleva lui. Però io mi ricordo che ci fracco, era quello che c'era lì a Cavour, quel meccanico. E adesso non c'è più. Mi ricordo che era questo. A Pierfranco, quello era il fratello, quello era solo meccanico, di moto, era anche bravino, poi è andato in pensione, ha chiuso Pierfranco, c'è una barca, va sempre a pescare, c'era anche il baracchino Pierfranco. Però il fratello, Marco Gavino Gibracco, era lì, che via è quella porta? Non so se via Rosselli. Via Rosselli, quella che scende dove c'è il supermercato, sino a giù a dove c'è la pizzeria San Gavino. Lì all'angolo c'era quello che vendeva le moto, le biciclette, ti ricordi? Quello lì è... Aspetta, no, non è via Dipendenza, Largo Sabelli, quella zona lì fece. Sai dov'era esattamente? Dove c'è quello che adesso aggiusta i motori marini, come si chiama? Il marito di Angela, là, che l'è morta. Capito. Quella lì è via Rossini. Via Rossini, esatto, io ho detto via Rossini, quella lì, non me ricordo molto le vie, a proprio Torres. Via Rossini, adesso dove c'è, porca miseria, Sergio, ecco, dove c'è Sergio, il marito di Angela, non anima, lì c'era il negozio di Cipracco. Non lo conosco più questo settore motori marini, sì, sempre conosco quello, non me lo ricordo perlomeno, e vabbè, abbiamo un po' in giro. Sì, quella zona lì che la mamma con me, ho fatto tutte le scuole, lì, c'è un casino là, che non viene posto, c'è quella zona lì. Ma guarda che Sergio lì c'era una decina d'anni, prima Sergio era una vita in via Cataloghino, una vita era in via Cataloghino, attaccato all'officina Madras, al parrocchiere a Madras, e lui viaggiava tutti i giorni da Porto Torres. C'era una decina d'anni lì, quindi sicuramente l'hai conosciuto la dottor Gibracco. Ero ragazzino io, avevo 14 anni, quando abbiamo imparato a Rugarelli a Gibracco, a pagare a rate, mi pare, a 10.000 lire al mese. Ma adesso chi vende molto ce ne sono poco, a produttore, c'è cose. E questo, quel minuto dove c'è la cinta, prima adesso va andata in gestione, penso. E mi ha fatto la puntata lì l'X-Max 250, la cosa da Roberto. Certo, se vedi il casco che gli ha regalato, ma bello, semi-integrale, colore della moto, ma bello veramente, i guanti gli ha regalato, quelli a mezza dita, due cose che gli ha regalato. Chissà quello che gli ha regalato Antonio, come fratello, e perché si conosce molto molto molto bene col padre, perché c'hanno il terreno, c'è un terreno il padre che è dell'Asi, e mio fratello gli ha fatto un sacco di cortesie, capito? E qui quando ha comprato la moto, se lo voleva regalare anche il boletto, che bel coglione, cioè, perché non l'hai preso proprio a me, ma cosa, non me l'ha tutti niente. E gli ho regalato il casco, ma bello veramente, minimo costa più di 200 euro quel casco. E i guanti quelli in pelle sopra e sotto, in lanatti con i tacchettini per non scivolarti i pomeri e le marce. Ma a me lo sai cosa mi ha regalato? Il bloccalotta, il coso, il telone, un po' più là. Poi sono arrivato, e non so come lo vedo. Tre cose, non mi ricordo l'anno che cos'è. Ma il boletto me l'ho comprato io, a volte. Il boletto non me l'ha. Però mi ha regalato tutte queste cose. Ah, mi aveva fatto anche il passaggio, mi aveva fatto anche il passaggio lì, anche se non aveva fatto. Io l'ho pagato solo una volta praticamente, la prima volta che l'ho comprato. Non capito. Ma non capito la presa aziendale, è di A. Di A, diceva matricolata, perché per uno, poi non l'ha voluta per problemi di finanziamento, più e là. Allora se l'ha ritirata mia fratella, se l'ha presa mia fratella. È di 2007, mi pare che sia poco la presa, mi pare che sia di agosto, mi pare, in agosto mi pare, per tanto qua, per l'anno scorso, comunque c'è un paio di mesi, molto bella grigia, una bella marmita, ragazzi, bella, mi piace come rombo, bella piena. No, vabbè, adesso vediamo. Se sistemo questa, lo dico io, vabbè, la centralina l'avevo già fatta fare, la centralina, il variatore, e cammina molto di più. Sui 150, 155, fa presso un 250, per me va troppo bene. E più ecco un fattore, se la metto la marmitta, dice che gira molto meglio il motore. Facciamo la roba, ma sì. Mettiamo la marmitta che ci ha scoperto il ritocco, la moto è abbastanza pesante, dovresti andare molto bene. Adesso vediamo. Se faccio quella lì non mi giambo, non giambo molto l'anno di vento. Me la sfrutto ancora un po'. Cosa stavo dicendo? Diciamo che quelle marmitte lì mi ha detto il meccanico che sfruttano molto il motore, aumentano i cavalli, però sfruttano il motore e se lo spompa. Quello mi ha detto, no. Mi ha detto non pensare che abbi tutte queste prestazioni, gira meglio perché lo scarico è più largo, quindi scarica meglio la moto, però sfrutta tutti i cavalli del motore. Secondo, se c'è in pianura, in salita, la moto la senti che è bella allegra, perché la mia c'è un po' di forza in salita, pare riuscimmo a viaggiare, non se ne scende. Però dice, se prendi appena una pendenza, va fuori giri. Quello dice, mi stava spiegando, ma che con una moto devi fare una cosa, devi fare tutte le altre insieme. Se non ti metti, li metti la marmitta, poi non li metti qui. Se vuoi che la marmitta ti renda, devi mettere anche i pezzi, devi cambiare la centralina, devi fare un sacco di roba. Allora, se è preparata così, la moto va bene. Ma se tu ricambi un pezzo solo, non ti rende più tanto. No, vabbè, io avevo cambiato anche il variatore, cioè, io ho cambiato il variatore, viaggia molto, molto più di più. Cioè, la sento che è più veloce la moto, più prende molto più velocemente giri e sembrava che volesse più acceleratore che con il variatore normale, invece forse perché è pesante, non so, comunque viaggia bene con la moto, non l'ha provata, è un altro fatto, è un bel motore con la moto, e poi va leggevole, in città è cattimandando un altro, va bene, adesso vediamo. Ecco che le devi ordinare con le marmitte, intanto sono standard perché mandano i cosi, no? Gli attacchi per tutte quelle che scendono la notte, universale. Quindi ce la provino, la montiamo, vediamo come va. Se è soddisfatto va bene, se no la togliamo, non ci sono problemi. No, amico, ma lei non ha venduto di moto. Il transatto me l'aveva venduto lui, ma di andare lo stesso, se di nuovo l'ho tenuto nel tappo e poi l'ho arrivato e mi ha dato gli stessi soldi. Una settimana e non ce l'aveva più. Due ferri lo stesso, 750, l'avevo preso da lui. Il 500 l'avevo preso da lui lo stesso. Adesso vediamo come va. Per il momento è una calmata perché ho avuto un bel dispiace, parecchio. Ho preso la macchina, c'è la casa, trazione, balle varie, adesso ci varia. Mi porterà l'anima di Gesù Cristo, ma sul 26, parte a Reggio Emilia, nel frattempo si trasferisce lì. Ho già trovato la casa e tutto, quindi devo passare anche, c'è una figlia fuori e si desidera che cosa devo mandare e via. Salve. Ma va lì a lavorare? Yeah. Allora va bene, va. Già li guadagni subito allora, va. Vabbè, ma cosa può bisogno? Sto preparando i documenti. A marzo c'è la chiamata, sto preparando i documenti per la polizia, si vuole arruare, vabbè, anche quello è un lavoro, non ve ne piace, non posso permettere di scrivere all'università perché vuole fare polizia scientifica e quindi tutte le spese sono già, purtroppo io ne ho una e devo seguirla e devo cercare di dare una mano. E quindi adesso parte lì, a lavoro, hanno già preso la casa, sono in due, loro una sua amica, hanno già preso la casa, dovrei partire il 26, quanto mi avete fatto i biglietti prima, perché sennò qui non trovo il posto, siamo sopra le feste di Natale, magari la Ieti è già prenotendo i biglietti, capito? Vediamo un po', non lo so, comunque. Speriamo bene. Comunque quella è una zona, dove il lavoro non manca. Sta tranquillo perché c'avevo un'amica lì che si è pentita di essere trovata qua, dice cosa si è trovata a fare, a trovare la fame. No, no, ma lei è già partita 5 giorni lì con la sua amica. Hanno battuto a tappeto tutti gli alberghi, tutte le zone che interessano a loro. Adesso mi hanno già contattato e quindi va a colpo sicuro, non c'è problemi. È che le case sono care, no, sono in due, 500 euro di affitto, perché devono pagare 250 euro affitto, vabbè è una casa grande, ho fatto una casa grande, tre stanze da letto, due bagni, lì sono case grandi. C'è che è nuovo a casa, poi lì c'è il padre, c'è un'azienda, il padre di questa sua amica, capito, si è trasferito lì, e quindi poi un po' qualche amico già l'ho contattato io, tramite altre persone, insomma, cercherò di dare una mano già, così vi va, poi quando la chiameranno per fare la visita che deve fare, partirà e allora lì sono più tranquillo perché diciamo c'è il lavoro assicurato e se ne andrà in pensione. Vabbè lì sì, però ti stavo dicendo che gli ha cambiato totalmente lavoro, io pensavo che ispirava proprio a lavorare in albergo. No già, Ilaria e Uia, Ilaria non è bella, c'è il comandante di nessuno. Con le persone, se lei dice se c'è una possibilità anche con me, insomma, nella sua particolare, allora vabbè, mi piace quel lavoro, però quello lì, solo che comunque il sistema di tasse e cose ha girato, si sfrutta il diploma e via, e poi fa quello che vuole fare. poi già ce l'ha fatto il culo quest'estate. Mamma mia, guarda, se non lo fai la direttiva, ci sono altri tre giri, ha fatto l'ottobre, battalizzato. È un lavoraccio già, è un lavoraccio. Un lavoraccio. No, io ora... Allora, già, ma non si prendesse il 1200 euro. Ho lavorato tutta l'orto pieno, ha preso neanche 1300 euro, perché 16 ore al giorno. Che sono fruttatori, perché quando facevo le stagioni di Antonio Lucifero, mi ricordo, vabbè, lui faceva segretario dell'albergo, prendeva anche 6 milioni, tu non mi disturbi. Non lo so, ma allora altri tempi già, erano altri tempi, no, vabbè, lì adesso qua praticamente vanno a fare la stagione invernale, mica a fare la stagione estiva. La stagione invernale, credo, a quanto mi stava dicendo, dove si impegna insomma a 2000 euro, me l'ho dato 2000. Ho cazzo di vivere, non è che poi... Beh, va lì. Se ci sai fare, con... sono delle vecchie lire, circa 4 milioni, quindi insomma, va bene. Va bene, non vuol più qui. Lui adesso momentaneamente si trasferisce lì e lavora, poi farà altro quando ci sarà da fare quello che vuole fare. Insomma, scelta sua, è grande e quindi è giusto appoggiare le sue scelte. Io non posso morirmi, io consiglio di loro, però dice, io papà voglio creare un futuro. Gli alberghi sono belli, si lavora, però si lavora stagionale, perché a meno che non entri, lui è già entrato in una catena abbastanza grossa, solo che non sei bagato, sei sfruttato blu. Sì, Bastianino adesso è a Roma, e praticamente d'estate lavora a Tintino, sempre la stessa catena, bravo. L'estate a Tintino, le saline, e l'inverno è a Roma, è un hotel nuovo che hanno aperto a 5 stelle. Io lo so, in Ularia è col gruppo Miliar, una fetta multinazionale spagnola, già si può fare, diciamo che dice io cazzo andare a dare il culo alla gente, per due lire non mi interessa. Ma lo cerco io per i fatti miei, chi mi offre di più, ma c'è anche telefonata e ricerca, lui. E adesso sta facendo il prezzo. Adesso quando la chiamano per gli extra, anche l'altro giorno l'hanno chiamata, dovevamo andare a cena fuori. L'avevamo già organizzato per venire con me, e c'è alle 6:30 ha ricevuto una telefonata, un extra. Dice sì, quanto mi dai? 40 euro? No, non ci vengo. Non dai 50, altrimenti non ci vengo. E non è andato. Perché se no perché fanno per il collo, capito? Se c'è la mia nipote che stava lavorando per 20 euro al giorno a fare la barista a Rotones, ho detto ma chi non vi dico io a faccia di dire. Oddio. Allora quando la chiamano, l'ho chiamata anche a Rio Antico da poco, e c'era un matrimonio, siamo oramai la conoscono quasi tutti, perché extra mi ha fatto un bel, anche quando era a scuola, andavo spesso a fare gli extra. L'ho chiamata, matrimonio, insieme una mano che là in sala, pure c'è pratica, così collezione dei ragazzi, abbiamo preso. Sì, per la lettura, la padrona, detto, quanto mi dai? Io non ti vengo per fare apparecchiare e poi cazzo mi metti, no, dice là, dimmi quanto vuoi, ha chiesto 70 euro l'aria e 70 euro l'ha dato. Bello, io sono andato a matrimonio, molto bello. Sotto l'aceto 31 lì, c'è tutto il verde, sotto gli alberi, molto bellissimo come fosse. No, andiamo a chiudere. No, per gli extra, anche quando è domenica, no. Quando si è andata là, Via Reato? Sabato, un sabato è andato in Via Reato a collocare un volo in aperto del bar Cattura Romondo, chiamati a feci caffè noi, pure la sera, è lo stesso, non ho fatto il prezzo, non c'era un cazzo, non è facile usare, ma poi l'estate, perché prima era porto qua, dopo la gita a porto qua, è rientrata, porto qua, è rientrata dopo una settimana ora, dopo una settimana l'ho chiamata a Porto Rotondo, alla per San Marco, molto bella, lì era piazzetta, favolosa, e lì gestiva il bar da sola, sino alla chiusura dell'albergo, 20 giorni, sino alla chiusura, diciamo, va. Mi è andata a dare una mano lì, perché mi hanno fatto le referenze, quindi le referenze. E gestivo al bar, ora la sono al bar, faceva i suoi turni, lui di mattina e il suo collega di pomeriggio. Mi faceva dalle 8 fino alle 3. E pure altro faceva dalle 3 fino alla chiusura. Fino a quando è 2 settimane fa. Ma distrutta la veste, c'è un casino. Prima li pagavano bene, ti faceva la stagione che ha fatto solano. Antonio non faceva lui, ci faceva la stagione, ci faceva 7-8 milioni e poi gli bastavano, se sapevi gestirti di subito, bastavano, capito? Non ce lo so, sì, lo so. Magari è stata quando era a scuola, lei aveva 17 anni, si vive, al Valentino lì, da Gian Piero a Pintino. Questo baccare dai, elementare non riuscivo a essere. E lo vedi, la pagava bene, non dico che pagava bene, però ti sfruttava a cazzo, baccare dai. Dormivano sotto nelle cantine, Vitelluce, non era Vitelluce, Vitelluce va via a Porto Cervo d'aria, che siamo andati noi 3 giorni, ma buffoni, c'era un mini appartamento a conto suo, lì a Porto Rotondo, e appunto qua tu con la navetta ogni ora la navetta li spostava dove volevano e ci avevano un altro albergo solo per il personale ad Arzachena, solo il personale, anche lì camera con aria condizionata, televisione e tutto, quello è il Vitelluccio, non a dormire i rigantini come per Valentino, l'umidità, cazzo, baccareggiare. Sì, non mi ricordo che me l'ha detto che era a casa del Stato, e poi Luciano, ecco io, che ha detto che c'era Vitelluccio, era una cazzapicchia, sembrava un attopaio, ha detto qua ci dormo, io non ci dormo. Infatti l'aria c'è stata pochissimo lì, il bar quindi di lì e se n'è andata perché non si poteva fare, era una toppaia a questo. Invece quando è partita a Coso, a Porto Quattro, era contentissima perché stava benissimo e a Porto Rotondo stava ancora meglio. Sto dicendo, c'era un mini appartamentino lì vicino alla piazzetta San Marco, proprio attaccato all'albergo, scendeva a piedi e saliva a piedi. Siamo andati anche noi 3 giorni, su, abbiamo dormito lì, siamo stati a Porto Rotondo, è un posto dove il cazzo dovevano di navire, ma ci incorniciato tutti gli scontrini, cioè una colazione in due, perché lei faceva la colazione lì al bar dove lavorava, la colazione in due 10 euro, ma due pasta, un tè e un caffè macchiato, figura. Poi c'è anche la gira pizza, 3 pizzi con una Coca-Cola e una bottiglia di birra a 160 euro, roba avanti. Certo, sono posti che non è che ti puoi allontanare molto, però 3 giorni vaffanculo me li ho fatti, ma per dirti no, che se uno lavora bene e fa bene, cioè se uno fa bene lavora anche bene, se uno non sta bene come alloggio, come pranzo, come cena, qui c'è il birra si manda. Qua io avevo un'amica che era ragioniera e faceva anche l'università, però adesso andava sempre, è andata a Marmorata, era andato il bungalow, è andato a Coso, a vicino a Nuorese, come si chiama? Vabbè, comunque è andato a Nuorese lo stesso e gli è andato il bungalow. È andato un altro posto, è andato un appartamento bello dove si dormivano in due, ma abbastanza bello, grande, con una bella stanza da letto, televisore, tutto quanto. È stato sempre bene, lo so, ma da quando poi ha trovato il posto in banca, è andato in banca a lavorare e allora siamo là. Ma infatti già, cioè quando poi trovi di meglio bene, vai. No, se ti ripeto, stai bene con te stessa, o con te stesso, quello maschio o femmina, se stai bene, cioè che hai un bel alloggio e sei tranquillo, lei stava bene e quindi ha continuato fino alla fine, ma andatevi a casa e devi che ha finito di lavorare, devi arrivare all'alloggio e sei già in tre persone in una stanza, cazzo, guarda con cotta, guarda con cruda, rubiaco dei beni, e dietro c'è di fare la doccia e il bagno occupato, qui e là, e si gira le balle, cazzo, capito? Uno è stanco per arrivare e dormire, lui usciva alle tre, ci faceva la doccia, tranquilla, cazzo, se ne stava nella sua stanza, bella, serena, non aveva ancora il codore nessuno. E ti rilassavi, no? All'indomani eri tranquillo. Però c'è questa amica mia, dice che qui andavano, c'è un albergo che fa la discoteca vicino a San Teodoro, era, adesso che non ricordo, e andavano a ballare in questa discoteca, non pagavano manco nulla perché pensavano l'albergo non pagava, perché erano, mi pare, concomitanza, albergo e discoteca, ma dall'albergo se chiedevano dove c'era la discoteca li mandavano lì. E viceversa, la discoteca indicavano l'albergo ai turisti, dove era l'albergo dove c'era lì, capito? Quindi lo facevano pagare il personale. E dice che se andava a ballare tutta la notte, poi l'indomani in casa gli dicevano come il giorno. Chi è? E a San Salvatore. Chi è? Alla luce. Chi era? Non lo so, caro. Non lo so perché io no. Sono andato una volta sola a trovarla quando lavorava lì e addirittura ci hanno anche iniziato a mangiare, noi ci hanno fatto più di lungo, ci hanno provato una roba da mangiare, ci hanno fatto il porcetti arrosto sopra sedo, sopra le reti di lì che hanno cucinato, e poi ce n'era qualcuno messo allo spiedo. Questo l'ho fatto artigianalmente con la punta fatta a mano, con il coltello, infittito lo forcetto e appoggiato al libro così, e fatta tutti i libri, lascia fatto le buone, e poi me l'ho servito in quei così, in quel porta pietanze fatti di sughero. Anche lì è così. Ma chi è Antonio? Chi è Antonio? Tu sì? Cosa stava parlando già? Capito. No, beh. Se ci vuole presentare, mi sembra che Antonio figlio di Paolo, non so. Se è lui. Vabbè già, dai che è tardi. Io ti saluto e prendo una pastiglia, me ne vado a letto. Ci sentiamo, grazie alla compagnia. Ho la speranza che si possa continuare a parlare in questo cazzo di radio, che no. Per il momento è giudito, non so voi già detto, troppo casino, troppo bordello e troppa gente che vuole avere prevalenza sugli altri. Vabbè, dai, ci sentiamo già, ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao. Buonanotte anche a te diventare ascoltatore. Ciao, ciao. Ciao, Gianni. Buonanotte a tutti, già, insieme alla mamma sul caso, stavo ascoltando. Io pensavo che ti abbiamo chiamato, non hai risposto, pensavo che stai facendo altro. Ciao Natta, abbiamo chiamato, ciao, domani. No, stavo facendo cosa, ragazzi. Ciao Antonio. Chi è? Da dove è Antonio? Scappare. Ma nuovo sì. Che fanno sociale? Una cosa. Cosa c'è scritto? Cosa? Ma è un po' tardi. Cappare. E adesso io sto chiudendo perché non sono alle 3. Ci sentiamo, tu sei buonanotte.